tradita da una storia finita, e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, dentro te ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a arrivare dentro il pianeta del cuore. È difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia.